1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, cambio, mi ascoltate canale 10? Attenzione, attenzione canale 10, cambio, cambio, cambio. Attenzione, dici, chi è che sta fischiando? I carabinieri. Chi arriva a cavallo? Un passaggio alla tecnica di avvocentrare un attimino. Attento, Alessio, Alessio, si ascolti qua, questa piccola chiamata. Bene, anda da Gui. Se non ti mando i carabinieri di Arda la cavalla all'asino. Adesso ti sento bene, ero fuori di NNB. Bene, mi senti? Sei a voglia, se tu bene mi senti, sì. Già ti sento bene. Ma era ora, pensavo che non mi sentissi. Sì. Mi sto cercando di costruire il quadro della vita di Gian. Ti sento bene con le orecchie. Con le orecchie ti sento bene, un po' di tosse, ciò. Me ne sono accorto, infatti. Sì, sì, me ne sono accorto, c'è appena appena di tossica. Cazzo che tosse del cavolo proprio. Non sono stato io a rapirle. Insomma, ah, sta giuvinto, dice amico, sta giuvinto. Cazzo, me la cosa gusta, però non me ne danno, inutile che li abbiamo vinti. E cos'hai giocato a sul computer? Lascia perdere. Uno o due telefoni ho vinto, che stamattina sono andato a Gazzara, mi hanno fatto il foglio, come io sono esente dal lavoro, sia io sia Simona, quindi sono a posto. Che cosa? Sì, anche io, mi hanno chiamato e sono andato l'altra volta. Mi hanno fatto quella roba lì, anche a me. Quante volte ci hai provato, fuggiasca? La mia addirittura ha fatto pensione di anzianità, di pensione. Era mio padre, eh? Questa pensione invece che il reddito. Sì, mi dispiace, ecco. Infatti mi ha detto, appena mi arriva il foglio, cioè che mi fanno la visita, se mi danno quella roba lì, immediatamente di chiamarli e poi ce la giocano, mi ha detto. Sia me che per Simona. No, io ce l'ho per, cioè, per conto mio. Ma tu non c'hai niente ancora, cazzo, boh, io te tu c'hai che sole me l'ha fatto? Ti ho detto che non ti ha fatto ancora, non dipende dal sole adesso, boh, mamma mia, Simona, cazzo. Ah, una scena, ragazzi. Sì. La sarà bassi, non fa di veggio. Pregatene, Antonello. Oh, iaia. A me me l'hanno detto che la mia passa da reddito a pensione e che non devo andare a lavorare da nessuna parte perché ho l'invalidità, capito? E la stessa cosa ha detto anche a me stamattina, uguale. Mi ha detto ma non è che io rimango senza... No, se non c'è quella c'è l'altra, mi ha detto. E come io lo dissi in pratica, mi ci danno. E non lo so cos'è questo RI, a me passa automaticamente perché l'altro anno giorno, faccio 67 anni, quindi passo automaticamente a pensione. E vabbè, tu il discorso di questo, tu hai 67 anni, io 60, figurati. Ma a me mi ha detto che in pratica mi danno il reddito fino ad arrivare ai 67 anni. Fino a 67, 67. E poi ti danno la pensione. Esatto, sì, quello voleva dare a me. Sia a me sia a Simona. Sì, infatti, è così. Mi metto, dice, sono a posto, non devo andare in nessun posto, non mi devo presentare nessun lavoro, eccetera, eccetera. Non mi chiamano per niente. Veniva solamente la... Il foglio? Questa roba qua e basta. Sì, anche a me. Perché io ero andato all'ufficio di collocamento, sono andato per dirglielo che io ero invalido, perché siccome sono iscritto anche lì, no? E allora non è successo niente lì, però mi hanno chiamato gli assistenti sociali, sono andato lì e mi hanno detto così, così e così, va tu. E sono andato stamattina anch'io, e infatti mi ha detto così, così, così anche a me, infatti ho fatto, ho firmato e sono a posto. Almeno sono tranquillo, hai capito? Sono esente di tutto, sia io che Simona. Si è fatto delle copie delle cose, appena mi arriva il foglio dalla... come faccio la visita lì a Rizzetto, immediatamente a portarla da loro, dopodiché io sono a posto, che tanto meno per Simona. No, io non io invece manco quello devo fare, perché l'avevo già fatta la visita, io ce l'ho già l'invalidità, capito? E quindi manco quella devo fare. Anzi, se faccio l'aggravamento dopo tutto quello che ho avuto, anche il 100% mi danno. Però non mi conviene che mi inibilino la patente. Ti pigliano la macchina elettrica, ti prendi, cosa ti da futti? Ma un posto, mica devi portare 50 persone, no? Ma vivo nel di Napoli, ma pigliassi la macchina elettrica, uno, io soldi non ne ho purtroppo. 350 euro, costa quanto un coso, 140. 140 euro la macchina elettrica. 150 euro viene. Beh, non lo sapevo. Pensavo che costava un bel di soldi. No, costa 3,50, costa, l'ho visto l'altro giorno. 3,50. Una macchinetta elettrica, quella che voglio prendere per farmi la spesa. Io l'ho già detto, io quella lì, io non posso portare pacchi, quindi dice vabbè, per il momento dice di loro questo numero di telefono, dopodiché lei telefona lì e gli porta, gli fanno la spesa e gliela portano a casa, va detto. E così anche a portarla dove deve andare lì a fare le visite mediche e roba del genere, capito? Sì, ho capito. Però la macchinetta elettrica costa 350 euro, così è. Sveglia 3,50, il minimo costa 3,50. Sì, ho capito. Secondo comandante me la biglio. Sì. Almeno cazzo. Perché non posso andare da qui al garage, mi fa male la gamba a me, mi viene un dolore allucinante a me. Se non mi operano è un casotto, non posso camminare. Già l'ho solata lì, non dico a me. Comunque a 3,50 l'ho visto l'altro giorno su Facebook. 3,50 è una di quelle macchinette lì. Ho un posto, coperta e tutto. Senza paga, senza assicurazione, senza bollo. E quella già mi converrebbe, solo che devi camminare sul marciapiede, in strada non ci puoi andare, no? Sì, ma cazzo, vanno tutti in strada, cosa c'entra qua? No, in strada non ci puoi camminare che non ha la targa, capito? Non ci puoi camminare, devi andare sul marciapiede, per forza. È temporale? Se ce l'ho, secondo te ci sono i tavolini, cosa faccio? Mi butto i tavolini in terra, come qua sotto. Ci metto poco io a buttare i tavolini in terra, quando passo qua sotto. Perché se ti trovano nella strada ti mettono la multa, non puoi camminare sulla strada con quelle macchinette per invalidi. È quello, ma non ne devono mettere tavolini, devono lasciare il posto per passare il tuo, lo sai. E qua sotto adesso si è accoppiato il marciapiede, hai capito, quello in pratica che c'è sotto casa, e quindi è strappata una persona e ci ha denunciato e doveva pagarla, hai capito? E lo credo. E non si può. È un grido. Qui ci sono gli scivoli, passano lì, è guai se tu blocchi lo scivolo, perché l'invalido deve passare, non c'è nulla a fare. Anche tu li chiami i vigili urbani in prezza e rimasi nei nuovi, se ti chiudono lo scivolo per passare tu con la macchinetta elettrica, lo sai. Lui ha preso tutto, ci ha messo i tavolini, hai capito, le serie, faccio vedere il foglio. Ha denunciato il condominio quella lì, perché è uscita dalla farmacia, visto dove c'è la farmacia, appena per la più avanti c'è lo scivolo e dopo di te c'è la farmacia. Quindi prima di tutto ci ha denunciato, lei è caduta, visto dove ci sono quei gradini, quei tre gradini famosi che non li vedi in cemento, lei è caduta lì e si è fatta male come sono fatto io, tale uguale. Cioè, denunciato, adesso dobbiamo pagarla, hai capito? Si è preso l'avvocato. E vince alla grande. E vince sia la grande, perché la colpa non è mica mia, no? La colpa è del condominio. Il capo condominio l'ha dato via a me. Io non gli pago niente. Io ho già detto io al capo condominio, perché gli ha dato il via. Io cosa faccio io? Quando passavo un giorno passavo all'esterno, in mezzo strada, in mezzo alle macchine, in seconda corsia, in piena curva, fatti i conti che ne entravo una moneta, me l'hai messo a me, e mio fratello, che cazzo mi paga a me, gli ho detto, la colpa è la mia, perché sono io lo stronzo, mi sono passato lì. E purtroppo quella lì la dovete pagare, cioè, si è fatta male lì e c'è qualcosa che non va per colpa del condominio, la dovete pagare, non c'è nulla da fare. Fermateli, arrestateli tutti per concorso. Perché se la paga? Ma se la paga cosa? Io non gliela pago, io l'ho già detto al condominio. Io i tavolini non li ho messo, i tavolini le sedie del bar, quindi se la paga lui. Affari suoi sono. Poi i tavolini, togliere le sedie, allora questo è il discorso, è chiuso, gli ho detto, perché non ne pago niente. Quello che ha messo i tavolini la colpa ce l'hai, allora tu non ne hai colpa, no? Quello che ha messo i tavolini deve pagare, c'è poco da fare. Appunto per quello, così gli ho detto, così deve fare, se non lo fate così io non firmo proprio niente, non pago niente e se la biglia in culo. Perché gli ho detto, io se dovesse capitare che c'è un'urgenza, che il mio fratello mi sentisse male, e siccome l'unico modo per poter passare è lì, da quella parte c'è lo scivolo, per poter passare la barella, non è che devo farmi gli scalini giù, no, dalla parte del cancello, ho detto, no, non credo proprio, quindi lui deve lasciare, tutto libero deve lasciare, e se no, va mangia, gli ho detto, a me non me ne frega niente. E il marciapiede vuole libero, no? È così. E tu Daurini non è, se non ne butti a punire, non li può punire e basta. Lo scivolo qua e ce lo chiudi. Perché ti frega, no? Non c'è nulla da fare. A me la volta che hanno chiuso qua il vicolo, ci hanno messo la macchina lì. Cazzo, a quanto è riuscito a passare la barella per portarmi all'ospedale? Lo sai, solo perché hanno chiuso il vicolo. Adesso se vedo macchine chiamo subito i vigili urbani e venne con un garattese immediatamente. E infatti appunto perciò e così sono incazzato anch'io, non peraltro, hai capito? Andiamo a fare quello che vuole, perché con c'è il vigile urbano, conosce i carabinieri, capito? E quello che capo di padre gli piace. E ma glielo faccio vedere fino a un certo punto. Perché il giorno allora che io porto Giampiero in carrozzina e cosa del genere, gli butto giù i tavolini, te lo dico io, faccio vedere che gli butto i tavolini uno per uno. E poi esca fuori e mi dica cosa. Lo denunci pure tu. E dai oggi, dai domani, vedrai cazzo li fanno chiudere il bar pure. Poi lì i tavolini fuori, cioè non li battono le manciate di sopra, no, anche quello di sotto, quello del comune. Il discorso è quello. Quello del comune lui non lo può chiudere, guai a lui. Infatti quella signora che ha denunciato vince alla grande, a quello lì lo obbligano a pagare per forza. Se si è fatta male sono cazzi di chissi di rubare, se lo dico io cazzo mi pone i daurini non li può punire, ma stai scherzando. Il naso è sempre nasale, in più anche le labbra, eccetera, eccetera. Ha preso quei tre calini in terra in pieno, capito? E questo sto dicendo. È arrivata la lettera a noi condomini, hai capito? A fare la riunione e a pagare noi. E con la testa del capo condomini ha aiutato, io non pago un cazzo. Ma ce la faccio, guarda, sono scemo di turno, gli ho detto no. L'ho dato lui e se lo paga Enzo, a me non me ne frega un cazzo. Perché quella signora lì è uscita dalla parafarmacia, dove c'è la parafarmacia, già lo sa che ci sono i gradini, quelli in cemento, già te lo ricordi anche tu. L'ha preso in pieno. Peggio perché ha dato l'ordine di mettere i tavolini, lì non ne possono mettere. Scusa Antonio che devo andare al QT a Capicolino. Fai pure, non c'è problema. Chi è che fruscia? Avanti sul 10. Antonè, ci sei. Voi credete che... Grazie, madre. Beh, beh. Che Dio li aspetta. Forti fiugi a Puglio. Cicù, canale 10, c'è qualcuno qua? Gianni. Chi è avanti? C'è qualcuno sul 10? Un bambino che c'è. Attenzione, 10. Se non hai una teoria della... Ciao Marco! Ciao già! sono ancora a Simante. Una spesa, quasi 250 euro di spesa, vabbè, tolte 10 euro di benzina. Sembrava un trasloco già, eravamo rimasti senza niente, né acqua, né bibite, né carne, né niente, né mangime per gatti, nulla. Ma io non mi riduco mai a questo disegno, io quando quello che sta per finire già lo compro. Anche a piccoli tesi però la compro, per dire, ma per quello lo compro, ma per l'altro lo compro. E già invece vado a passi da casa, capito? Quando faccio spese grosse, per dire, ieri l'ho fatta bella grossa e ho speso sugli 80 euro. Sì, no, io ho voluto vedere fin dove riuscivamo ad arrivare, c'è finita la roba, e siamo arrivati a filo di tutto, cioè non eravamo senza acqua, non eravamo senza mangimi gatti, poi siamo arrivati proprio a filo di rasoio. Un trasloco, poi io da bravo paragnosta stava un po' più vigilando, ho detto ascolta io ci provo, sposto la macchina e ci ho messo la moto al posto della macchina, poi se si mettono altre moto pazienza, io ci provo, per fortuna non si è messo nessuno, non ho fatto altro che spostare da sotto casa la moto e mettersi la macchina e ho scaricato tutta la roba, cazzo, ma roba per eserciti, le scorte per la guerra. Eia, avete parlato in due, chi era l'altro a parte Gianni? Avanti. Io ero io, la tua coscienza. Natali, se sapessi i gelati che ho comprato, coni, croccante alla marena, non si può spiegare. Bianco, secondo me l'ho fatto sta Natali per farci venire la buglia. vabbè. E ancora sto scaricando, stamattina, oggi mi sono piaciuto, io che sono sempre mezzo murendi, stamattina tra ritirare la pensione di mamma e nel pagare le bollette, poi andato all'edicola, andato al tabacchino, andato in farmacia, poi giusto il tempo un po' di riposarmi un attimo, tornato là fuori e poi alle due di nuovo uscito. Ho fatto questa spesa in tre posti diversi, sono andato, perché certe offerte sono lì, certe offerte sono là, e ho voluto fare un po' di tutto. Ora, minchia, devo ancora disfare un bel di roba, sono a dito, cosa hai capito? Ma non mi immagini, non ti impari. No, ma sai perché già qua sembra di essere in quattro, non in due, in quattro, perché le gatte... oggi è schizzinosa e non mi mangia la cosa, o domani non ne mangia un'altra, io allora ho dovuto prendere mangimi un po', differenziarli, sia da Conal, anche da Conal sono andato, quindi quattro posti, li ho dovuti differenziare un po', in modo da variare la dieta, capito? E quindi praticamente c'era anche un bel di roba per loro, capito? Di tutti i tipi, sia patè, sia bocconcini, sia specchietti, sia croccantini, sia marasol, sia compagna. Poi acqua, non avevamo più acqua naturale, acqua gasata, acqua piccola, eravamo proprio a filo di rasoio. Io tutto il resto, adesso non ti sto a elencare tutto, però, Cristo, ho detto, ma è meglio che non ti dica quanto ho speso. E d'altronde, ascolta, la roba mancava, io ho dovuto ripristinare quello che mancava. Ah, beh, certo. E va bene. Gamma, gamma. I gelati non sono cose necessarie. No, per me sono indispensabili, non solo non necessarie, ma necessarie come? Indispensabili quasi. E beh, anziché mangiarti adesso un biscotto, una tavoletta di cioccolato, ti mangi un gelato, adesso mica arriverà il caldo purtroppo. Anche non è male, la cosa. Ma guardi, Natali, ma gli era squillato il telefono, mi era sembrato di sentire un trillo mentre parlava prima. Non lo so, Marco, non l'ho sentito io. Non lo so, anche io ieri ho fatto una bella spesa, ho comprato un bel po' di roba e mi sono comprato anche il cavolo, cazzo, me l'ho dimenticato il sapore del cavolo, me l'ho fatto bollito, ho fatto insalata, quanto è buono. Eia, guarda il cavolfiore intendi, sì? Sì, il cavolfiore. Guarda, io ne vado matto, sia insalata, sia con cavolo con le olive, in rosso, con un po' di passata o quello che, vabbè, mamma lo sa fare di più. In tutti i modi mi piace. A soffugarlo si chiama il sassarese quello, anche a me piace. Poi ci mette le olive e anche würstel, sai, tagliati a col coltello a tocchettini, per dargli quel non so che in più. Vabbè, già, sono senza maglietta, sto cercando di radiare il calore, che ero rovente come sono tornato a casa. Vabbè, io ho finito di sistemare, allora se no non esco più, poi devo anche pranzare. Pensa, non ho pranzato perché questo, se pranzo mi viene l'abbiocco e poi non esco più. E poi già sai cosa, a me piace andare a fare la spesa alle 2, 2:30 quando c'è poca gente o quasi nessuno, perché se no fine serata stare in fila con i carrelli pieni a me non piace, perché poi succede che tu prendi, che ne so, vedi una cassa libera, prendi i surgelati, come stai per arrivare alla cassa arriva uno prima con carrello strapieno, e quando a pagare, a tornare a casa si sono già sciolti nonostante la borsa frigo. Sì, è vero. E i gelati volevano preso all'ultimo. Sì, sì, all'ultimo, ma io li prendo all'ultimo, vado alla cassa e arriva uno col carrello strapieno, che poi ho detto borsa frigo, volevo dire il sacco gelo, capito? Poi già c'è la tua tassi, discount qua, vado, li prendo e li porto a casa, c'è due tassi devo fare. Tra l'altro un po' si sciolgono lo stesso, Un pochino sì, soprattutto quelli senza scatola di cartone, sai, quelli singoli, tipo il cornetto singolo, confezionato singolo, il gelato biscotto, oppure quell'altro tipo magnum, no, quelli soffrono di più. Però la scatola in cartone, tipo per i croccanti alla marena, fa già un pochino da isolante e salva un po' la situazione. Ok, già detto Joe, sì, detto Joe, detto ciò, finisco di fare quello che sto facendo, poi se ce la faccio entro dopo, ma vedo che mi addormenterò dopo mangiato. Ciao già, ciao Natalino anche. Dove stai andando? Io devo disfare la roba ancora del tutto, Natalino, poi mi mangio una cosa, un assaggino, una cosa veloce mi, e poi mi abbiocco. E toccata e fuga fai tu. Vabbè, io sono delicatuccio, in realtà li devi capire, per me è stata una grande fatica oggi fare tutta questa roba, fu sempre tutta in un giorno, tutto assieme, capito? Va bene, a dopo, se sono vivo, a dopo, riprendi già. Guarda, morimondo, vai, ciao Marco, ciao, io sono dalle 6 di mattina in piedi, figura. Ma questa stanchezza cronica mia è deleteria, te l'ho detto, mi mancava il fiato a portare la roba su, vabbè che era una mamma, ha detto cosa cacchio, che ho visto tutto il corridoio con muste in lunghezza, tutto muste, sabbia per i gatti, confezioni di acqua, di tutto, capo, ci stavi tu in macchina? sì, ha voglia se ce ne sta. Tu pensa che mamma quando andava in Gallura a insegnare non aveva nemmeno la macchina di adesso, aveva la 1, Fiat 1, la riempiva a filo di tettuccio, no? E praticamente si faceva un piccolo trasloco, sia quando andava in Gallura sia quando tornava a Sassari. Ma tu devi vedere la roba che usciva dalla 1, no? Se tu la vedevi poi tolta dalla macchina, tu dici ma come cacchio ha fatto sta roba a entrare nella macchina? Cioè riempiva tutta la parte dietro i sedili, tutta, fino al tettuccio. E poi usava gli specchietti laterali, no, per guardare dietro. Ma se ti fermano ti fanno osservazione perché non vedi da quello centrale. Che la gara, e vabbè. Ah, vabbè Marco, va, se tutti prendono station wagon, per carità, se riempi la station wagon ti svuoti tutto il portafoglio. Beh già, se quello mi ha messo una curiosità, però sai cos'è, siccome esiste il fiorino, o esisteva quello tappato dietro, senza, non vedi dietro, c'ha gli specchietti laterali, no? Io so che se non hai la possibilità di usare il retrovisore centrale, basta che tu abbia anche lo specchietto destro. Adesso io non sono sicuro, bisogna chiedere a chi è più fresco di patente o a chi ne sa. Però almeno il destro lo devi avere se non hai visuale col retrovisore. Vabbè, ma centrale non lo vedi mai, capito? Vabbè, il fiorino è una cosa di faccia, un furgone, devi avere occhio, devi avere molto occhio, però te lo devi immaginare lo spazio, non è che lo vedi, lo immagini. Anzi già, ti dirò di più, c'è la dash cam che è in macchina, quella per tutelarsi sugli incidenti, no? C'è una funzione per cui io non l'ho attivata, però la faccio manualmente. Quando fai retromarcia ti si attiva a tutto schermo, la telecamera posteriore e tu vedi, se per parcheggiare meglio, vedi proprio il bordo della macchina e ti aiuti con quello. Se non sono così fiscali, comunque va bene, non era il mio caso, io già ci vedevo bene oggi, alludevo alla storia di traslochi, capito? Va bene, a dopo, ciao, vai Natali. Sì, un attimo, sto facendo cose. Oh Gianni, c'è ancora? Io ci sono. No, dico, vabbè, stavo guardando le notizie e la cronaca in generale, no? E avevo letto che quella povera ragazza che era incinta, che era scomparsa, l'ha ammazzata il ragazzo. Forse per non avere casini di arrivarsi il figlio, cioè l'ha ammazzata. Qui è duplice omicidio perché c'aveva un bambino in 7 mesi dentro. Cosa vuoi fare? Non lo vuoi fucilare o impiccare? Eppure gli daranno 20 anni, poi buona condotta, sovraffollamento, premi, come si chiama, quelle cose che danno, buona... E se ne farà pochissimi di anni. Sì, sì, lo sapevo la stamattina io. Però ieri, guardando chi l'ha visto, mi ero già detto che era stato... non incriminato, ma praticamente sospettavano di lui, i inquirenti. Adesso che l'hanno chiappato, l'hanno fatto confessare, lui ci ha dato un'altra donna praticamente, e aveva un'altra relazione con un'altra ragazza, e quando questa è rimasta incinta, la voleva farla abortire, lei non voleva abortire, capito? Sicuramente era abbastanza malissimo. Allucinante, guarda, allucinante, una bella ragazza, ha trovato un animale, se poi lo guardi sembra un bonaccione di faccia, almeno le foto che hanno fatto vedere. E come era? Il signore della campagna, napoletano, sempre dice che scherzava con tutti, aveva sempre la battuta pronta, un ragazzo dolce, molto ammirato dalle ragazzine. Appunto, era pure dolce, sì, dall'aspetto sembrava un bonaccione, capito? Ho detto, era meridionale, il cognome era di tipo napoletano, capito? Un carrone, capito? Quanto era dolce, figurati se era, invece si è rivelato un mostro, vabbè, cavoli suoi, purtroppo però in Italia la pena, cioè negli Stati Uniti ti danno l'ergastolo, in certi stati ti danno la sedia elettrica o la camera a gas o l'iniezione letale, cioè non esci più, qua tra buona condotta, sovraffollamento, licenze premio, cioè ne farà poco di galera, vedrai. E adesso le fanno anche il giochetto in carcere perché hanno lasciato una donna e un bambino. I carcerati lo puniscono. Eia, guarda, è meglio che non se le faccia, non se la faccia la doccia. Quando tocchi bambini e donne, i carcerati ti puniscono. Eia, ma che poi è la stessa gentaccia, amici, cioè loro hanno questa specie di codice di comportamento, niente, donne e bambini dicono, e poi magari hanno fatto mostruosità peggiori, ammazzato, trucidato, vabbè, questi delinquenti sono comunque, vabbè già, stacco, se non... Volevo dire questa cosa qui, allucinante però, allucinante. E beh, con l'altra cosa voleva fare? Magari ammazzava anche l'altra, per non avere rogne. Ma questa gente, ma cosa li vuoi fare? Non lo vuoi fucilare davvero? Fosse un tastante, mi. No, lui secondo me non voleva l'impegno di questa qua che era incinta, capito? Perché stava con l'altra e voleva eliminarla dalla sua vita e ha trovato questa volontà di farlo. Poteva lasciarla a vivere tranquilla e ci avrebbero pensato i familiari per il resto. Vabbè, ma anche lei, che ne so, la pillola, oppure lui profilattici, se proprio non voleva figli. Io ho sempre fatto così, non ho mai voluto inguaiare nessuna ragazza. Ero io proprio anche che non volevo rogne da parte mia. Profilattici li ho sempre comprati, ce l'ho tuttora, li ho ricomprati, poi non me li posso nuda, me li pongo in cabo, però ce li ho. E tu cerca di usarli. Tu c'hai. Ho detto, tu cerca di usarli, io li ho sempre odiati i preservativi. Io lo so già, però piuttosto che rovinarsi l'esistenza, questo babbeo, se l'avesse usato quella sarebbe viva. Ti rendi conto? per non spendere, costano, se li tirano dietro anche nei discount, li vendono di quelle marche sempre prodotte dalle grandi, però poi diciamo le producono i soliti, però gli mettono una marca con un prezzo minore, tanto lì c'è, vabbè, è inutile parlarne anche, ormai il danno è fatto. Stacco dopo, ciao. Ciao Marco. Finalmente ho finito di fare quello che stavo facendo. Ciao ragazzi. Ehi, stamattina ho dato un sospiro di sollievo quando sono arrivato a casa. Da una cosa là sei rimasta lì. Dalle 6 di mattina ho cominciato a prepararmi, a fare alle 7:10 un quarto in un'ira tutto pieno di ieti. E non ho pagato. Abbassa un po' già che sì, troppo alto, sto andando a strappare. Appena, amico, un pelino. Guarda adesso, roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E c'è una voce soffia là. Non mi piace nulla. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Lascialo così. Via. Cosa ti stavo dicendo, Natalia? Sono andato a fare le analisi, no, stamattina, lì alla Peloce. Sino a ieri facevano pagare, da oggi cominciavano a non far pagare più quelli che avevano esenzione. Ho avuto una fortuna, guarda. Già lo so che facevano pagare a tutti. Perché io non sono andato lì. Sono andato in Viale Umberto, sono andato, guarda la volta che non mi volevano fare quell'esame. Non accettate lui. Català e Selle sono dovuto andare. E lì non fanno pagare mai. Non li faceva nessuno poi gli esami che gli aveva prescritto quella stronza di Tiesi. Io ho fatto un video roba stamattina, sono andato a pagare il condominio, sono andato qua, sono andato là, poi in banca, e ho fatto un mille di cose, sono tornato a casa che ero sfinito. E anch'io ero impegnato stamattina. Per carità, quando vogliono fare le cose vogliono fare. Purtroppo sì. E se non ti ribadi non ti ribadi nessuno. E chi me ne fa? Le forze solo le fanno le cose, Oh signore. E Ruben, pensa vai Ruben, figurati. Ogni tanto ti telefoneggiano che è vecchissimo, vecchito, la clavì, candè, una perdita d'acqua da quello del piano di sopra, cazzo, tutta la facciata di, guarda, leva un altro la biglietta, ho dovuto fare a Marad e Bono, cazzo, sarà un puntatore. Ma cos'è? Esterno il tubo? Ecco. Allora esterno l'ha messo, deve essere quando sono intervenuti i vigili del fuoco, o con la scala o col piede hanno induzionato il ciudichi 20 kg e ha cominciato la besita a rimanere nella candela, rimane con sé. Ragazza, abbiamo dovuto chiudere il contattore dell'acqua. No, ma sì. Ecco. Ecco, avanti break. Buongiorno, 151, la Porco Nero qua a Potenza. Dove ti trovi? Porto Ricco ha detto. Natali, l'hai ascoltato? No, ci sono altre sovramodulazioni e lui arrivava più in basso. C'è propagazione, capito? Kappa, sì, quello l'ho capito che c'è propagazione. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Buongiorno, 713, la stazione di Potenza. Ciao l'amico di Potenza, non ho capito il tuo nominativo. Comunque la stazione è doppio rullo della città di Sassoli in tandem con l'Attalino Alfa 1. Dale, buon buongiorno 73, sono Paolo, dalla città di Potenza Centro. L'ha copiato, Paolo ha detto che si chiama. Davvero? Sì, lo copio benissimo. Ciao Paolo, ben sentito, vai. Sto aspettando che finisce di parlare da te. Ciao Paolo, operatore Gianni Doppio Room, in tandem con Natalino Alfa 1. Ormai parlami con Alfa 1 se l'ascolti. Vedi, deve essere scesa la propagazione, non l'ascolto più io. Attenzione Paolo, si ascolti il doppio rumo. Avanti, avanti, l'ascolto. Scappa, dai. Paolo, c'è anche un altro amico che ha detto avanti, non so da dove sta modulando, l'operatore già nel doppio rumo che ascolta al 100% l'altro amico, Positivo, dai, ok, Roger, dai qua. E niente, dai, sto facendo alcune prove per un po', prima eri un po' più basso, ma c'è anche un altro amico che poco fa ha parlato, arrivava più forte di te, aspetta un attimino, avanti l'altro amico. Paolo mi ascoltava, buongiorno, Luciano dalla Sicilia che ti super cordializza, ciao Gianni, mi sa che ho sentito, e anche Alfa 1. Scappa Luciano, dai, ben sentito, cordialità, l'operatore doppio rumo che ti super cordializza, avanti, lanta lì. Vai e fate durare un rischio, sta ne fottito. Cosa? Ma a te, a chi tu dura Sicilia, fate durare un rischio, quella ne fottito. Attento Natalino, ascolta. Paolo, cambio. Sì, cambio. Ciao, bra. E poi stavo contento, la piccola. Comunque il fondo scala qua, sei arrivato. Giacuto! Capa, Natalino, con l'antenna di gomma sto uscendo, cambio, ciao Gianni, buonasera. Ciao Fra, c'è qualcuno che sta chiamando, non so se lo senti Fra, c'è qualcuno che sta chiamando da fuori. Avanti, chi chiama? Capa, ascoltate questo becchio qui in provincia di... Attenzione, se ascoltate l'isola sarda, Gambio, attenzione, canale 10, Gambio, se ascoltate l'isola della Sardegna che chiama. Avanti, chi ha risposto, l'isola sarda ti ascolta. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna che fa chiamata. Natali, fini qua, non mi rimodulato. Lascia arrivare. Io manco li chiamo quando arrivano così. E ma sempre qualcuno che si sente bene gli accetta. Ui. Io se non li sento bene in banda laterale non ci parlo neanche. Stamattina ho collegato uno di Lione in Francia, uno di Lecce in Puglia e uno di Catanzaro, tutti al Fatango erano. Questa era di Padova. E K. Se li sento bene allora gli rispondo, se no manco a ripundirli cosa. Quando arrivi in così. Infatti. Se li senti bene, già va bene, dai. L'altra volta abbiamo collegato un po' di gente e li sentivamo bene tutti. Infatti, quando la propagazione è buona va anche bene, ma quando la propagazione è un po' così non fa. Ma stava salendo comunque, prima arrivava a basso e qui stava arrivando sempre più forte. E vabbè, vediamo un po'. Se magari aumenta che si sentono bene, che chiamano, allora sì. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, break over. Chi è che chiama la Sardegna? Avanti. Ci sono molte sovrammodulazioni, non riesco a copiare. Ma tu li stai chiamando, non li chiama, perché se tu li chiami si mettono a parlare una sopra l'altro che non si sentono uno o l'altro tra l'altro, non li senti tu e quindi è un casotto, li chiami solo quando li senti bene e basta. Parla tu allora. Che cosa parla tu? È inutile chiamarli quando arrivano bassi. Io non vi voglio manco uso, sì, perché per quello me ne vado in banda laterale se voglio fare di ex. Peccato che mi manca l'altra antenna per poter parlare qua. Se no mi avrei messo un antennino per ascoltare qua e poi me ne sarei andato in banda laterale. Così se c'era gente qua era entrato qua. E se no me ne sarei andato in banda laterale a parlare. Quando vedo che non c'è nessuno allora me ne vado. Ehi, ma già me la piazza una seconda antenna, così almeno cazzo posso ascoltare da in due parti. Puoi mettere quella magnetica. E ce l'ho in macchina quella magnetica. Ti metti quella magnetica e c'è due antenne. Ma quella magnetica dove la metto? Mi devo fare una staffa, un qualcosa, là. Quella magnetica non la posso mettere da nessuna parte. Non c'hai una ringhiera in ferro, qualcosa di ferro da attaccare? No, se ce l'avessi avuta l'avrei già piazzata, no? Il frigorifero! E Drento casa non andava in fuori pure antenna, no Drento. E tu non modulavi prima l'antenna dentro casa, da lì. Io me la metto. Ma non avevo possibilità di metterla fuori. Fuori bisogna metterla. E dentro casa non ascolti basso, capito? Io sto a casa. Oggi non è entrato nessuno. Hola. Attenzione, canale 10. Già, devo staccare perché la signora mi ha chiamato. E vabbè. ti prendo più tardi, là. Ah, va bene, Natalis, non c'è problema. Scappa. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, ci ascoltate l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata, si sintonizza in ascolto, break. Attenzione Sardegna. Avanti, chi chiama la Sardegna? Stazione Motore di Napoli. Papa Micoli Pozzuoli, è la città di Sassari, nord Sardegna. L'operatore è Gianni Doppiorun della città di Sassari, avanti. Prova 1, 2, 3, come mi ascolti? 6, 9, 15 da radio 5. Attenzione Sardegna, sei stato? Bravo. Ti copi? Sì, ti copio, ti ho dato anche il segnale, è 9, 15 da radio 5. Grazie mille, segnale tu mi arrivi.